stato molto duro invece con i reporter che hanno cercato di fare chiarezza invece all'interno. Juan Carlos e Cristian sono due tra i migliori reporter investigativi del piccolo paese e dopo un lavoro certosino durato anni hanno pubblicato un libro, Gran Hermano, il grande fratello in italiano, che tutti in Ecuador vorrebbero leggere ma che pochi hanno avuto la possibilità di trovare nelle librerie. Il motivo? Semplicemente sparito dagli scaffali. Il protagonista assoluto dell'opera è Fabrizio Correa, fratello maggiore di Rafael, ma soprattutto gli affari miliardari fatti dal primo con appalti firmati dal secondo di suo pugno. Non una, ma ben 35 le prove presentate dalla coppia di giornalisti a certificare la veridicità di ogni rigo scritto. Tutto inutile. Di fronte all'ira di Rafael Correa che li ha portati in tribunale, la notoria indipendenza della magistratura locale ha portato gli sventurati ecuadoregni in primo grado a una multa da pagare pari a 2 milioni di dollari statunitensi per danni morali nei confronti del paladino salvatore di Assange. Ecco qua un profilo che completa un po' il racconto su questa vicenda oggi sulle prime pagine di tutti i giornali. In conclusione voglio segnalarvi, sono più di uno ma uno basterà, Liguria a secco, razionate l'acqua. Torneremo a parlare intorno alle 8:20 del tema appunto della emergenza idrica nelle sue varie declinazioni. Intanto, come dire, a mo' di riepilogo, oggi dalle cronache del secolo XIX, il grande caldo e la mancanza di piogge mettono a rischio le coltivazioni di ulive e uva, l'emergenza idrica a Ponente a Levante. I sindaci vietano di innaffiare i fiori e di lavare l'auto. Questa è una delle misure prese per affrontare l'emergenza idrica. Il titolo, ve lo ricordo, Liguria a secco, razionate l'acqua. Di acqua torniamo a parlare tra circa 25 minuti. Adesso linea alla regia, agli aggiornamenti da GR24. 24 mattino, estate. 8:19 minuti, ancora un buongiorno da Gigi Donelli, un saluto a tutti voi, un saluto che mi manda anche Alessandro Longoni in assistenza questa mattina. Dunque, estate, fa caldo, tutto regolare, però in alcune diciamo momenti questa ennesima ondata ampiamente annunciata sulla nostra penisola non farà che rendere più complicate delle situazioni che sicuramente non sono legate alla colonnina di oggi, sono legate alla storia, alle infrastrutture, anche alla storia meteo che, come abbiamo detto prima, racconta di una primavera piuttosto secca in varie parti d'Italia. Però ci sono poi le situazioni specifiche. Noi allora oggi vogliamo ricominciare da un comune del Teramano, si chiama Silvi, 16.000 abitanti circa. Con noi è il sindaco di Silvi, Gaetano Vallescura. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi e permettetemi di rivolgere un buongiorno a tutti i sindaci che anche questa mattina in prima linea lotteranno per il loro territorio. Ecco. E grazie a voi che date più voce ai sindaci, che sicuramente la merita ultimamente merito di avere più voce. Grazie. Sindaco, dunque, visto che lei è già partito diciamo sul piede della battaglia, perché la sua battaglia, la battaglia, io cito solo un fatto, dall'inizio di luglio, già nelle cronache appunto dei giornali sì, del centro Italia, si dice Silvi in crisi, manca l'acqua, insomma riduzione degli orari. Ecco, la domanda che le faccio però, la prima è, com'è il bilancio della vostra estate sul fronte turistico? Silvi ha una spiaggia di quanto? 6 km? Più o meno? Silvia ha una spiaggia di sì, all'incirca più o meno. Sui 7 chilometri. 7 chilometri. 6-7 chilometri. Quindi il turismo è importante per Silvi. Il turismo è l'economia più importante, la fonte di ricchezza della nostra comunità da sempre. È una città rinomata a cui abbiamo. Ed è stata data anche conferita la cittadinanza onoraria a Mogol, che ha trascorso la sua infanzia, la sua giovinezza sulle nostre Perfetto, spiagge. Quindi insomma ci sono anche degli ospiti in musica importanti, certo, mi dica. Sindaco, è vero che causa rubinetti asciutti molti se ne sono andati quest'estate? Ma io penso che qualcuno sicuramente avrà sofferto, molto probabilmente qualcuno, ma non possiamo dire che in massa sono andati via. Quando dico rubinetti asciutti, che cosa è accaduto? Sì, Quante... è acc- Prego. Sì, è accaduto purtroppo che un'emergenza, io continuo a ripetere, a mio avviso, che non la si può imputare solamente, diciamo, a questa stagione calda, magari anormale, più calda di altre stagioni, perché lo si sapeva già in anticipo. L'emergenza per quanto riguarda la mia città, purtroppo è iniziata, come diceva lei benissimo, già da luglio, se non da fine metà giugno, e ha sofferto più di altri comuni, anche perché poi la rete idrica, il consorzio che distribuisce l'acqua nei nostri territori, che il consorzio è l'ACA, sono reti interconnesse, poi a seconda dell'ubicazione e della particolarità della rete si è venuto a verificare che la mia città abbia subito qualcosina in più rispetto ad altre realtà, ma l'intera litoranea, l'intera costa ha sofferto di questa carenza. Quando dice città... qualcosina in più, ci spieghi cosa vuol dire? Spiego, che magari alle 2 del pomeriggio uno vuol farci una doccia e non c'è esattamente, acqua. Esattamente, esattamente. Quindi è un po' forte questo qualcosina. E turisti che mi dicevano siamo costretti a fare la doccia con l'acqua minerale. Allora mi sono veramente arrabbiato, come un po' nella mia indole. Ho iniziato nel scrivere al governatore della nostra regione una lettera accorata dove dicevo di vergognarmi di dire di essere un abruzzese, se l'Abruzzo è seconda al Trentino per quantità e qualità delle acque. Ecco, infatti volevo appunto arrivare a questo. Che cosa rispondere alla gente. L'acqua da voi arriva alle spalle, diciamo, dalla montagna, no? L'Abruzzo è sì, un territorio... L'Abruzzo è ricchissima, si figuri che qualche anno fa, pochi anni fa addirittura, si proponeva di venderla alla Puglia l'acqua, addirittura c'era anche questo. Il problema è che sicuramente sono delle reti, sono i problemi di questi enti che alla fine più che dare servizi finiscono per diventare dei grandi carrozzoni dove non si fanno investimenti mirati, dove diciamo la riqualificazione, il rifacimento delle reti ormai obsolete per la quasi totalità, ma dell'intero comprensorio, io non parlo solo del mio comune in sì questo, sì certo non caso, riguarda sindaco, sono cose che andrebbero fatte invece e che invece non vengono fatte. Grazie al sindaco di Vallescura, io credo che il suo caso sia stato spiegato in maniera assolutamente chiara. Sindaco, nel frattempo ha poi riaperto dei pozzi, è intervenuto, come dire, ha tamponato una situazione che però, come abbiamo visto, era annunciata, si è verificata, oggi è stata affrontata in termini appunto di emergenza, ma che probabilmente ritroveremo l'anno prossimo, la prossima momento secco, alla prossima crisi. Con noi stamattina, e la ringrazio di esserci, Margherita Cervo, che è ricercatrice, autrice tra l'altro di un libro che si chiama La geopolitica dell'acqua e membro del Comitato Italiano per il Contratto Mondiale dell'Acqua. Dottoressa Cervo, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Ecco, sentire queste cose tra l'Abruzzo e la Puglia non credo che la stupiscano. Lei lavora da parecchio tempo su queste tematiche. Come mai non si riesce mai a trovare appunto una chiave di soluzione per cui un luogo deputato al turismo con alle spalle bacini importanti come quello di Silvi si ritrova all'inizio di luglio, neanche in piena estate, a secco? Allora, innanzitutto le motivazioni appunto possono essere diverse ed è molto interessante questo caso proprio perché ci mostra un caso in cui pur avendo un'abbondanza di risorsa fisica in realtà si ha lo stesso problema legato appunto alla penuria d'acqua. In questo caso il problema è di tipo infrastrutturale. Abbiamo sentito tutti il sindaco lamentare della mancanza di infrastrutture, della mancanza di investimenti. E qui ci ritorniamo velocemente. Diciamo che questo è un aspetto che può essere mancato, che può essere legato alla mancanza d'acqua. Un altro aspetto è quello dell'utilizzo dell'acqua, come lo si utilizza visto che nella maggior parte dei casi il problema appunto è legato non tanto alla mancanza fisica quanto proprio al modello produttivo o produttivista che si fa dell'acqua. Ma torniamo un attimo sulla questione infrastrutturale. Si lamentava la mancanza degli investimenti. Ebbene, nel caso per esempio di Silvi, nel caso di Pescara, ma nel caso in realtà dell'Italia, dalla fine degli anni 90 nel 2000 abbiamo assistito ad un cambiamento, ad una trasformazione di quelle che erano i consorzi, di quelle che erano le ex aziende municipali e via dicendo, in società per azioni. Oggi in Italia la maggior parte della risorsa è gestita da società per azioni a capitale misto, pubblico-privato, ma società per azioni che quindi agisce secondo la logica della società per azioni. Si era detto fra le motivazioni che supportavano questo cambiamento, c'era quello di aumentare gli investimenti, invece così non è stato. Cioè la privatizzazione non sta portando investimenti sulle infrastrutture, perché la logica della società per azioni è anche quella di venderla l'acqua, quindi nel caso di Silvi per esempio non credo che ci sia un beneficio dell'azionista nel non portare appunto il prodotto acqua. Allora, è appunto questo è esattamente il punto. Il caso Silvi, ma non solo il caso Silvi, in realtà c'è uno studio del Covid e io voglio citare quello del 2008 che appunto fa al nostro caso, che dimostra, dati alla mano, che in Italia ci sono numerosissimi Silvi. Do semplicemente dei numeri. Il Covid, il rapporto a cui mi riferisco, peraltro pubblico, quindi chiunque vi può accedere per verificarlo, mette in rilievo come, prendendo a riferimento tre anni, in particolare 2004-2006, quindi tre anni sostanzialmente gestiti, dove il servizio idrico è stato gestito fondamentalmente da società per azioni, a prescindere dal capitale di proprietà, mettendolo a riferimento invece con la gestione precedente, quella pubblica, si vede come gli investimenti previsti, quindi quelli sulla carta per intenderci, siano contratti di circa due terzi, passando dall'equivalente di 2 miliardi di euro a circa 700 milioni. Insomma, l'investimento previsti, ancora non c'è. Non è che l'investimento ancora non c'è, sto dicendo, ripeto, dati alla mano, che quelli previsti si sono contratti di due terzi e quelli di questi previsti, quelli effettuati, si è dimezzato sostanzialmente di oltre la metà. Questo non è perché l'investimento non ci sia, ma perché evidentemente la forma giuridica privata, che avrebbe fra le altre cose dovuto garantire gli investimenti o comunque flussi, come si suol dire, di liquidità, non lo sta facendo, non l'ha garantito, e dunque il sistema infrastrutturale in Italia è ancora in uno stato davvero preoccupante. E arriviamo dunque a situazioni come quella descritta. Io ringrazio Margherita Cervo, lo ricordo, la sua posizione è molto chiara in proposito, dunque un percorso di privatizzazioni che non porta risorse e infrastrutture che restano appunto allo stato poi descritto dal sindaco di Silvi Gaetano Vallescura. Grazie dunque a Margherita Cervo, anche lo ricordo, è autrice tra l'altro di un libro, La geopolitica dell'acqua, e membro del Comitato Italiano per il Contratto Mondiale dell'Acqua. Insomma, il clima, il meteo di queste giornate caldissime, l'acqua al centro di parecchi articoli. Vi ho letto circa mezz'ora fa come dalla Liguria ci siano proprio degli appelli per il razionamento su diverse zone del Ponente e del Levante. C'è anche un problema che si allarga dall'Italia di fatto al mondo, è quello della produzione agricola. Ripartiamo tra qualche momento, avremo con noi Lorenzo Bazzana, responsabile economico nazionale di Coldiretti, sentiremo che effetto sta avendo questa perdurante siccità sui raccolti, e poi cercheremo anche di capire quali impatto, quali conseguenze prevedibili che questa abbia sui prezzi e sui consumi. A tra poco. 24 mattino, estate. caldo afoso, l'avete sentito nel nostro spazio dedicato al meteo. Vi ho annunciato il prossimo ospite, Lorenzo Bazzara, responsabile economico nazionale di Coldiretti. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, colture colpite, e da giorni di fatto che lo diciamo, le chiedo innanzitutto di farci un piccolo aggiornamento. Allora, qual è la situazione, quali sono le colpite, le colture più colpite in questa fase? La situazione innanzitutto deriva non soltanto dalle alte temperature, ma anche dal fatto che fra l'inverno e la primavera abbiamo avuto una carenza di precipitazioni che sicuramente non ha aiutato. Noi sappiamo che con l'irrigazione solitamente interveniamo, si dice, in soccorso, ovvero sia andiamo a integrare quelle che sono le precipitazioni. Bene, abbiamo delle zone d'Italia dove è quasi un anno praticamente che non piove e quindi in sostanza non si parla più di irrigazione di soccorso, ma deve essere un'irrigazione continuativa, perché altrimenti le piante non riescono a svilupparsi. Ecco, il caso del Veneto, da questo punto di vista, credo sia abbastanza emblematico. Sì, cioè infatti non è che è tutto perso il raccolto, ci sono zone molto infrastrutturate dove... Sono zone in cui magari si è riusciti a intervenire e a coprire quello che mancava appunto dal cielo, diciamo così, e delle zone in cui invece si riuscirebbe a intervenire proprio in soccorso, e se non piove nel periodo successivo alla semina o nel periodo che anticipa la fioritura, ovviamente ci sono dei grossissimi problemi. E questo è il caso di alcune parti del Veneto, questo è il caso di alcune parti della Romagna, dove addirittura abbiamo la cultura principe di quella che è la nostra pianura, che è il mais, che è oltretutto propedeutica a delle filiere zootecniche di altissimo pregio, come quelle del latte, dei formaggi e della carne, dei prosciutti e altri derivati, i salumi appunto, che hanno avuto grossissimi problemi in fase di fioritura. Addirittura abbiamo delle culture che non hanno differenziato in fiori e quindi non hanno prodotto neanche le pannocchie, quindi in sostanza ha raccolto zero, solo costi di produzione da sostenere, e in altri casi invece riduzione dei raccolti fortissimi, con anche qui dei bilanci che assolutamente non sono positivi. Ecco, adesso torniamo tra un momento con Lorenzo Bazzana anche per capire come, diciamo, arginare le complessità di questa fase. Voglio salutare però nel frattempo Andrea Segre, che è docente di politica agraria internazionale all'Università di Bologna, presidente del Centro Agroalimentare di Bologna. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Insomma, le notizie sembrano davvero negative. Prima abbiamo parlato di luoghi dove l'acqua c'è ma non arriva, poi delle grandi colture. Adesso, ecco, se allarghiamo ancora lo sguardo, non possiamo non comprendere quello che vediamo arrivare dai quotidiani americani, la crisi nel Midwest. Insomma, un'estate davvero micidiale sul fronte dell'agricoltura. Con quale implicazione, a suo avviso, per l'autunno e l'inverno? Beh, sarà un inverno e un autunno senz'altro caldo, anche in termini di prezzi, perché quello che sta succedendo a livello climatico, questi eventi estremi, bastava sentire le previsioni che avete mandato in onda qualche minuto fa per capire appunto che a una grande siccità poi seguiranno degli eventi dal punto di vista delle piogge molto pesanti, questo non aiuta di certo. Finalmente il G20 si è dato appuntamento, seppure in modo virtuale, con una conference call a fine di questo mese, perché è un problema globale. Il mercato delle commodities, delle materie prime agricole, mais, la soia, il grano e il riso, ha un'influenza anche evidentemente a livello locale sui paesi in via di sviluppo come sui paesi in via di sviluppati. Basta pensare a quello che è successo qualche anno fa, le rivolte del pane, in Italia il caro pane, il caro pasta, perché evidentemente questo calo di produzione, le speculazioni che poi ci saranno e che ci sono già, in realtà avranno, si trasmetteranno sulla nostra filiera, tra l'altro non proprio efficientissima. Quindi l'importante è che questo warning, questa attenzione, insomma, che in qualche modo dobbiamo mettere in modo preventivo, abbia effetto questa volta, perché è una sorta di film già visto. Ecco, un film già visto. Naturalmente, come sempre nei remake, ci sono delle varianti, ci sono dei fatti. Da una parte, per esempio, si parlava di crescita dei prezzi, ve ne cito solo uno: 2006 il grano si paga 13-14 euro a quintale, agosto 2012 siamo a 28, quindi non stiamo parlando di aumenti, stiamo parlando di raddoppi, stiamo parlando di balzi clamorosi. E per quanto riguarda il remake, lei lei citava appunto rivolte del pane, casi che hanno visto anche diciamo l'entrata in crisi di sistemi che vanno dagli Stati Uniti alla Russia, all'Australia. Questa estate la situazione sembra molto concentrata sugli Stati Uniti e più sulle nostre parti. La Russia e diciamo l'Australia possono sopperire, e il Canada magari possono sopperire da sole a queste difficoltà attuali? Sì, in realtà noi e gli agricoltori in particolare conviviamo con questa volatilità, se non si riesce a intervenire a livello globale, peraltro cosa molto difficile. La situazione è un po' diversa rispetto alle oscillazioni di qualche anno fa, perché grano e riso, riso in particolare, che poi sono la dieta dei paesi in via di sviluppo, stanno andando meglio rispetto a mais e soia, quindi l'impatto l'avremo da noi, perché appunto mangimi, carne, latte e poi il mais dappertutto, perché ha un uso anche non alimentare, per dire, ce lo troviamo nello sciroppo del cibo in scatola piuttosto che nei sacchetti di plastica di Mater B. E questo evidentemente si è accoppiato anche alla competizione che c'è, caso degli Stati Uniti, con i biocarburanti, cioè produciamo mais per mangiare oppure per alimentare i motori delle macchine. Ecco, si capisce che questa tensione non potrà che aumentare se non si interviene. Ma come fa il presidente americano a intervenire adesso che è sotto elezioni, tanto per fare un esempio, riducendo, come chiede la FAO in modo molto autorevole, l'uso del mais per il bioetanolo? Quindi insomma, governance mondiale difficile, e poi evidentemente qualcosa a livello locale si dovrà pur fare. Ecco, il bioetanolo è quello che, quando si attraversano gli sterminati campi del Midwest americano, gli allevatori, gli agricoltori ti spiegano che in realtà è proprio grazie a quello che sono usciti dalla crisi, che il prodotto, che il loro prodotto è stato pagato meglio. Visto da fuori invece è qualche cosa che drena le risorse appunto dalla produzione alimentare alla produzione di una quota del carburante che sappiamo gli Stati Uniti ha scelto come anche progetto di lungo termine alternativo alle energie fossili. Allora, professor Segre, non si esce da questa questa conflittualità? Anche in Italia è un aspetto che comunque ha dei risvolti positivi per chi produce. Ma non c'è dubbio, infatti questa è una misura vista molto favorevolmente, come dicevo prima, dagli agricoltori americani e non solo, e va diciamo nell'ottica della sostenibilità, energie rinnovabili, minore uso delle fonti fossili, però entra in competizione con le culture alimentari, quindi squilibria questo mercato, cosa che peraltro è avvenuta e avverrà. E poi guardiamo quello che sta facendo per esempio la Cina, accaparramento delle terre, quindi il cosiddetto land grabbing, e cioè la Cina sta acquistando, affittando terre soprattutto in Africa, sapendo che oggi siamo in 7 miliardi, ma saremmo in 9 miliardi del 2050 e tutti dovremo più o meno mangiare e bere, peraltro l'acqua ce la mangiamo più che beviamo. E dove sta concentrando questi acquisti? In Africa, che diventerà per la Cina produttore di cibo e di energia. E quindi questi problemi, come dire, sono già noti, bisognerebbe porceli a livello di governance globale. Bazzana, dunque, una crisi che, come dire, ha molti dei fattori che sono noti, ma per quanto riguarda le risposte, voi che cosa chiedete, come pensate appunto di reagire a queste di fatto sequenze che hanno tempi sempre più ristretti, che si ripetono sempre più vicini negli anni? Ma come coltivetti, la tensione è quella di cercare di spostare, diciamo così, il tema di discussione anche nel nostro paese sull'agricoltura e sull'agroalimentare. Se il G20, se il dibattito politico degli Stati Uniti si sono appunto in questo momento concentrati su questo tema, che come giustamente diceva lei diventa un tema sempre più ricorrente, perché una volta si parlava di siccità ogni tot anni, oggi, come giustamente diceva anche il professor Segre, abbiamo degli eventi estremi in cui abbiamo concentrate le precipitazioni in tempi strettissimi, in cui c'è sovrabbondanza di acqua che viene recapitata sul terreno, e in altri momenti in cui assolutamente di acqua non ce n'è. Allora, punto primo, portare nell'agenda politica anche del nostro paese al centro del dibattito l'agricoltura e l'agroalimentare, che vorrei comunque ricordare è sicuramente una leva positiva economica anche per l'occupazione, che se giocata nella maniera giusta può permetterci di rilanciare anche l'economia del nostro paese, visto che siamo in un momento di crisi. Dall'altra parte, il discorso appunto della gestione delle risorse idriche, bisogna assolutamente, mettersi in moto per far sì che quando l'acqua arriva sul terreno, tanta che sia, poca che sia, in tempi ristretti, possa essere invasata, possa essere risparmiata, possa essere conservata per i momenti in cui invece evidentemente non ce ne sarà. Quindi è logico che anche qui ci vuole una iniziativa infrastrutturale tarata su quello che è la gestione anche dei consorzi di bonifica, che sono delle strutture assolutamente esistenti sul territorio e che possono appunto essere braccio armato per poter gestire queste situazioni, in modo tale che quando l'acqua arriva questa possa essere intercettata e resa poi disponibile quando serve. Intercettare l'acqua, sfruttarla al meglio, insomma, modernizzazione. Ho ancora una domanda per il professor Segre, che poi ci deve lasciare, anzi lo ringrazio per essersi ritagliato questi minuti con noi. Allora, quanto l'elemento delle infrastrutture anche in questo settore è ormai al centro di qualsiasi progetto futuro? Beh, molto importante, non soltanto nei paesi sviluppati, ma anche in quelli in via di sviluppo. Quindi c'è un miglioramento, un progresso tecnico che deve andare avanti e che deve essere orientato verso il risparmio, verso la lotta allo spreco anche nell'acqua, perché dicevo prima, l'acqua noi ce la mangiamo, è il mais che serve a produrre la carne, il latte, nel nostro caso i prodotti di eccellenza, è sicuramente una cultura idrovora, e quindi tutta quella tecnologia che possiamo usare per risparmiare l'acqua, come diceva bene Bazzana prima, diventa importante. Però è la politica che un po' potrebbe fare di più, e dipende sì dall'Italia, ma noi siamo all'interno ovviamente dell'Unione Europea, quindi dalla politica agricola comunitaria. Allora, trasparenza, efficienza, sostegno alle organizzazioni dei produttori, perché noi dobbiamo in qualche modo stabilizzare questi mercati. Ormai sappiamo, sugli eventi estremi possiamo fare poco, si potrebbe fare di più contro il riscaldamento climatico, ma abbiamo visto che i risultati sono abbastanza modesti. Ruolo più rilevante, sempre per entrare in qualche dettaglio, delle organizzazioni interprofessionali, relazioni contrattuali lungo la filiera, lunga o corta che sia, forse meglio anche un po' più corta, ma insomma l'importante è che sia colta, efficiente, e questa è un po' la strada. Mitigazione dei rischi ormai ci sono, e quindi gli agricoltori devono essere parati, ma anche in qualche modo aiutati, e quindi campo abbastanza difficile, in realtà complesso, per poi non ingenerare quelle situazioni in qualche modo di panico, di grosso peso dal punto di vista dei consumatori. Abbiamo visto cosa è successo solo qualche anno fa. Adesso siamo più poveri di prima, siamo in crisi, stiamo più esposti. Certo. Grazie ad Andrea Segre, lo ricordo, è Andrea Segre, docente di politica agraria internazionale all'Università di Bologna. Grazie di essere stato con noi. Tra un momento torniamo con Lorenzo Bazzana, e poi abbiamo anche un altro ospite che ci porta direttamente nel terreno dei prezzi. Adesso però è tempo di sentire gli aggiornamenti per chi è in viaggio. 24 mattino, estate. In passato sono stati veri e propri motori dello sviluppo industriale in alcune aree del mondo. Mi viene in mente in particolare il Minnesota, Minneapolis, c'è uno straordinario museo dei mulini, mulino della farina. Allora mi riferisco alla metà dell'Ottocento, ce n'erano 17, e ancora oggi, visitando alcune zone degli Stati Uniti come Minneapolis, ti spiegano con dovizia di particolari che la crescita economica americana nasce nel momento in cui si unisce la grande produzione, gli spazi, la produzione cerealicola, la trasformazione industriale, insomma la macchina, la forza energetica, e dunque i prodotti alimentari che invadono il mondo. Con noi questa mattina abbiamo Andrea Dalla Giovanna, che è titolare del Mulino Dalla Giovanna, 180 anni di storia compiuti quest'anno, complimenti, auguri, per un'impresa che in provincia di Piacenza dunque si occupa di farina. Buongiorno. Buongiorno a lei. lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, visto che parliamo di aumenti e di grandi sistemi, a lei chiedo il dato che appunto ho citato poco fa, cioè il grano che si pagava sui 13 euro al quintale nel 2006, oggi 28, innanzitutto è corretto? Sì. Quindi negli ultimi 4 anni abbiamo avuto degli aumenti del quasi 100%. 100%. Ecco, qual è nella sua esperienza le oscillazioni? Voglio dire, prima di questo dato, che prima del dato del 2006, cosa c'erano? Decenni di stabilità oppure siete abituati a fare i conti? No, a dire la verità, erano 15 anni di stabilità, i prezzi sono sempre fra i 13 e i 15 o 16 euro, qualche escursione in funzione di eventi o climatici eccezionali, però la media degli ultimi 15 anni fino al 2006 è sempre stata stabile. Poi qualcosa si è rotto, i prezzi appunto arrivano a questi attuali di 28 e a fronte di situazioni di complessità come quelle che abbiamo descritto e che ovviamente lei conosce meglio di noi, che cosa prevede per i mesi ma anche gli anni a venire? Cioè siamo di fronte a una continua crescita di questi prezzi di prodotti di base? Poiché mentre la produzione mondiale è rimasta stabile, sono aumentati i consumi mondiali, sia per i vari utilizzi che sono stati fatti dei cereali, cioè per uso alimentare, zootecnico, energetico per il bioetanolo, alimentare perché ci sono nuovi paesi come la Cina che hanno aumentato il loro consumo, e poi per eventuali anche speculazioni oppure problematiche climatiche che influiscono sicuramente sulla produzione. Ecco, alla base quindi più i cinesi e il loro boom economico, la trasformazione del consumo, l'uso appunto il passaggio dal riso alla carne, quindi che non i temi idrici nella sua visione di questi tempi? Ma è un insieme di fattori, perché ormai il grano tenero segue le regole globali, quindi è caratterizzato da tanti fattori, a volte direttamente proporzionali fra di loro. Ecco, l'effetto poi sul consumo quotidiano, quindi nei negozi ma anche nelle pizzerie, ecco, ovunque si consuma, in che modo secondo lei lo avvertiremo? Magari l'avete già quantificato nell'autunno e nell'inverno che a venire? Ma guardi, noi per darle alcuni dati, da giugno 2012 ad oggi abbiamo avuto degli aumenti sulla materia prima dal 30 al 45%. Sicuramente sul prodotto finito influirà all'incirca un 10%, e quindi influirà sui prezzi al consumatore, salvo essendo in momenti recessivi o di difficoltà e di crisi, che venga assorbito in buona parte dagli stessi utilizzatori. Cioè il margine, quindi, dice che c'è, quando parla, sì, di 30-45%, un aumento del 10%, i conti non tornano, quindi ci sono margini così alti su cui lavorare? Solamente che nella realtà i margini, anzi il settore molitorio forse è il settore nell'alimentare che ha i più bassi margini di redditività dell'intero comparto agroalimentare, che sono quantificati in 2-3%. Il discorso è che poi nella trasformazione del prodotto cioè le percentuali incidono, lei tenga conto di questo, il prezzo della farina o la farina influisce sul pane il 19% come materia prima. D'accordo. Quindi un aumento del 20% influisce circa un 5% sul prodotto finito. Chiarissimo, il prezzo della farina incide sulla produzione finale per il 19%, quindi non si trasferisce evidentemente in toto su quello che è il prodotto. Grazie Andrea Dalla Giovanna, è stato interessante anche sentire quelli che sono appunto poi i numeri. Vorrei concludere con Lorenzo Bazzano. Dunque, da una parte abbiamo dei produttori in enorme difficoltà, dei trasformatori che dicono i margini sono già ridottissimi e appunto non c'è spazio per se non appunto limarli ulteriormente. Poi abbiamo dei consumatori che dunque tutti noi di nuovo in difficoltà. Prospettive difficili, con quali progetti per affrontare tutto questo? Ma innanzitutto onore al merito, mi sembra che dal 2006 qualche passo in avanti l'abbiamo fatto. Il rappresentante appunto dei mulini che ha appena parlato ha detto che un 30% di aumento del prezzo del cereale come materia prima non vuol dire il 30% di aumento nel prodotto finito. Del pane. Nel 2006 abbiamo litigato, discusso, ci siamo strappati le vesti su altre cose, quindi onore al merito il fatto che venga riconosciuto che la materia prima conta solo il 19% nel prezzo del prodotto finito, e questo è uno dei problemi agricoli quando poi diciamo che c'è poca remunerazione su quello che facciamo dal punto di vista del lavoro. La domanda che però mi poneva è diversa, la domanda è quella di prospettiva. Noi crediamo che in prospettiva assumano sempre maggiore valore quelli che sono i contratti di filiera, le iniziative per fare quella filiera colta che diceva Segre prima, ma non furba, perché deve essere colta, ma colto non deve essere sinonimo di furbo, ovvero sia deve essere una filiera che cerca di eliminare le inefficienze, facendo sì che rimangano effettivamente i soggetti che apportano valore, apportano diciamo un qualcosa al prodotto, in modo tale che si riesca a razionalizzare la suddivisione della torta e i soggetti economici che lavorano attorno a questo prodotto possono essere giustamente remunerati e il consumatore possa trovare il prodotto sullo scaffale con un prezzo adeguato. Per questo, visto che si parla di progetti, sicuramente è noto a tutti il progetto di Coldiretti per una filiera agricola tutta italiana, che oltretutto cerca di recuperare un altro valore, il valore della lavorazione, della produzione, della trasformazione, del know-how tutto italiano, ovvero sia comprando questi prodotti si tende a mantenere un'economia e un'occupazione viva nel nostro paese. Questo credo che tenendo aperto quindi un sistema, conservando tutti i pezzi, perché insomma, assolutamente, il che non vuol dire essere chiusi rispetto al mondo, ma insomma certo, rispetto anche ai consumi che abbiamo locali. Assolutamente, si sta parlando in questi giorni di Ilva, di rispetto ambientale, di Taranto, di occupazione, eccetera eccetera. Noi crediamo che parlare di queste cose in ambito agroalimentare significhi riuscire ad avere una filiera completamente italiana che parte dal campo e arriva alla tavola con le nostre tradizioni, con le nostre cure, con la nostra attenzione al sistema igienico-sanitario, per far sì che appunto il consumatore possa trovare il giusto prezzo, la qualità che si attende e un ritorno anche in termini di occupazione. Questo secondo noi è la via maestra per i prossimi anni. Grazie a Lorenzo Bazzano, lo ricordo, il responsabile economico nazionale di Coldiretti. Insomma, l'agricoltura, la trasformazione alimentare, l'ambiente, è evidente che tutti questi elementi siano collegati strettamente tra loro, la tutela del territorio in questi giorni in cui vediamo anche il Po in secca, i campi circostanti così letteralmente in attesa di pioggia, più che mai vale la pena riflettere appunto su progetti di lungo termine che toccano il lavoro, la tradizione, la cultura italiana. Bene, con questo siamo in conclusione. Carmelo Lauricella alza leggermente la nostra base e con me vi saluta. L'appuntamento è GR24, poi naturalmente il 9 in punto questa settimana, con Gianfranco Fabi. Un saluto a tutti, noi ci sentiamo lunedì.